baciami piccina con la bobo. E vuole sapere se anche la spirulina, abbiamo detto tutto in ina, e quindi anche la spirulina, infatti ce lo sottolinea, il fa bene alle gambe. Bella sbarazzina, quale tentazione sei per me. Andiamo a sentire i mercati. Cara sillaba. Assetto da e biblia ubia iblia ubia. No, non particolarmente. Anche se finisce per ina. Anche se finisce per ina. Non è tra quelle prescelte. La nicotina e la deborina però fanno bene. Fanno benissimo anche la per nicotina, le gambe. Ma la nicotina inizia fa male. In particolare per le in quantità. Sono qui, sono pronta per incominciare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Molti vacanzieri sono partiti, e sì, perché guardate che mica tutti amano fare le ferie ad agosto. Qualcuno ha fatto solo un primo assaggino di luglio, poi il grosso lo farà il prossimo mese. Altri probabilmente partono oggi, chissà cosa non troveremo lungo le autostrade d'Italia. Altri ancora dovranno soffrire per qualche settimana, ma insomma per la gran parte degli italiani è proprio conta la rovescia. C'è anche chi non ha prenotato un bel nulla e si sta guardando attorno per acciuffare magari un hotel last minute per risparmiare qualcosina. Chi invece preferisce prendersi una casetta in affitto? Allora, proprio a questi ultimi ci vogliamo rivolgere oggi. Perché? Perché scegliere un appartamento in affitto e non un resort? Solo questione economica? Oppure preferite vivere una vacanza in cui potete mantenere le abitudini quotidiane e allo stesso tempo ricercare una maggiore intimità e indipendenza che non sempre l'albergo o il villaggio possono darvi? Ma se non sapete tutte le regole per i patti chiari e amicizia lunga fra l'affittuario e il proprietario, allora oggi c'è la trasmissione per voi. Per cui aspettiamo come sempre le vostre domande all'800 24 00 24. Il tema è casa vacanza in affitto, che cosa dobbiamo aspettarci, quali sono le regole che devono rispettare sia il proprietario che affitta la casa, sia colui che naturalmente la occupa per un breve periodo. Nella seconda parte della trasmissione parleremo invece di chi magari possiamo proprio trovare anche in queste case vacanza: le zanzare. Chi le conosce cerca di evitarle. Ieri sera a Milano c'era veramente una tempesta perfetta di zanzare. Si prova con il buio, con il lancio della ciabatta, c'è chi va di geranio, chi passa lo zampirone, la citronella, insomma ce ne sono tanti di rimedi. Ogni metodo è buono, ma non sono tutti ugualmente efficaci. Così allo stesso tavolo c'è chi viene pizzicato, chi invece non viene neanche minimamente preso in considerazione dalla zanzara. È questione di culex, secondo voi? Allora, non è una parolaccia, ma questo è il termine latino che appunto identifica la zanzara. Noi ne parleremo più tardi con due persone, con Marina Marazza, che insieme al dottor Claudio Venturelli, entomologo, al serial killer delle nostre estati, hanno dedicato proprio un libro. Voi intanto raccontateci che rimedi mettete in atto, come vi difendete, andate di Autoan, vi cospargete con questo prodotto, ormai non dovremmo fare pubblicità ma lo conoscono tutti, praticamente ognuno ce l'ha in tasca in queste sere d'estate. Che fate quando venite punti per alleviare il prurito? Anche su questo argomento cominciate a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. Operazione vacanze, diamo inizio alle danze, salsa, merengue, latino, oh oh oh, col gioco aperitivo. Isotta se la balla anche questa canzone, non solo me l'ha trovata per mettermela in apertura di trasmissione, ma evidentemente la conosce pure bene, perché vedo lì dietro che zompetta e sgambetta. Allora, è accertato che molti italiani preferiscano la comodità di una casa in affitto che possa renderli liberi da orari e altri vincoli che l'albergo, la pensione o il villaggio turistico naturalmente in qualche maniera possono imporre. C'è un'indagine dell'Istat secondo la quale oltre il 60% dei turisti nostrani trascorre il proprio soggiorno in alloggi privati invece di scegliere alberghi, hotel o appunto pensioni. Ecco perché ci è sembrato utile a ribadire le raccomandazioni del caso, sia per chi affitta, quindi i proprietari, sia per chi occupa per qualche giorno una casa. Quali diritti e quali doveri spettano ad entrambe le parti, senza dimenticare che questi business sono spesso intermediati da agenzie professionali e operatori del turismo. Con noi questa mattina Isabella Tulipano del network Solo Affitti. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Lei intanto con le zanzare come se la vede? Abbastanza male. Ecco, anche lei viene tempestata, insomma, di punzoni estivi. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Rivolgeteci i vostri dubbi. Se avete fatto una prenotazione per affittare una casa della località che raggiungerete prossimamente, ma al momento non avete ancora visto né casa né documenti, per cui magari vi abbiamo sollevato qualche dubbio. Se avete dubbi in sospeso, chiamate. Ci siete abituati ad affittare o ad andare in affitto? Ecco, se siete degli abituè dell'affitto della casa vacanza, aiutateci magari anche voi a stilare la lista delle raccomandazioni per chi invece magari quest'anno lo fa per la prima volta, perché potrebbe esserci anche qualcuno all'ascolto che è sempre andato in hotel o ha trovato altre soluzioni appunto per trascorrere il suo periodo di riposo, ma quest'anno per la prima volta ha deciso di prendersi una casa. Allora, dottoressa Tulipano, andiamo subito alla prima specifica da chiarire. Se volete affittare una casa, ci rivolgiamo agli ascoltatori, bisogna tenere presente che anche i contratti di casa per le vacanze richiedono la forma scritta, anche se poi hanno questa, tra virgolette, fortuna che non devono essere registrati a fini fiscali. È così? È così, tutti i contratti devono essere scritti e la registrazione invece è obbligatoria solo per i contratti al di sopra dei 30 giorni, motivo per cui spesso quelli turistici hanno quella durata particolare di 29 giorni per essere certi. Di fatto comunque bisogna considerare che la scrittura di questo contratto è una tutela comunque per le parti, anche e soprattutto per il proprietario, perché pensiamo, di fatto la legge dice che i contratti non scritti sono nulli e questo è tutto da verificare. Ma di certo se ci fosse comunque un danno, un incendio, o dall'altra parte se l'inquilino poi non volesse più liberare l'immobile, certo, è ovvio che non avere nulla di scritto non tutela nessuna delle due parti in un caso o nell'altro. Quindi insomma questa è una cosa che devono ben sapere tutti, proprietari e clienti, ma soprattutto i clienti. Il contratto per la casa vacanza richiede la forma scritta, però insomma non è necessario poi che il proprietario lo registri a fini fiscali se la durata dell'affitto non supera i 30 giorni. È la disciplina normativa del contratto per finalità turistiche ed è una disciplina meno rigida, no? Rispetto a quella prevista per i contratti di affitto di appartamenti per uso abitativo, però appunto alcune cose le dobbiamo mettere assolutamente nero su bianco nell'interesse di tutti. Andiamo subito ai suoi primi suggerimenti, dottoressa Tulipano, poi vediamo se grazie ai nostri ascoltatori possiamo ulteriormente arricchire la rosa delle raccomandazioni. Sicuramente nel contratto appunto è necessario andare a indicare, visto che parliamo di contratto completamente libero che fa riferimento quindi al codice civile e non alla legge di riforma delle locazioni, quindi non ha assolutamente vincoli, quindi scelgo liberamente durata canone, vado però a indicare per esempio l'entità del deposito e della caparra, vado a indicare le modalità di pagamento, vado a indicare che cosa succede in caso di disdetta prima effettivamente della preso possesso dell'immobile, ma anche che cosa succede in caso di mancata riconsegna delle chiavi, no? Ho specificato comunque quella che è la data di durata del contratto, ma alla scadenza comunque io ho già affittato a qualcun altro e le chiavi non mi vengono ridate, in questo caso ci sono già delle penali che vengono fissate. Quindi è vero che il contratto è completamente libero, quindi una tabula rasa su cui un po' sbizzarrirsi, ma bisogna essere quanto più precisi in questi casi. E dall'altra parte appunto se sono il cliente è molto importante che legga subito le politiche di annullamento, che legga la capienza dell'immobile, perché non solo è il numero di posti letto, perché magari io posso anche accontentarmi di dormire in tre, in quattro sul letto matrimoniale, ma di fatto se c'è un limite di capienza massima dell'immobile non è possibile presentarsi in numero maggiore rispetto a questa capienza, no? Ed è importante soprattutto, segnalo per il turista, considerare che cosa compone il prezzo finale, cioè il prezzo se comprende ad esempio le spese accessorie dei consumi, se queste sono a forfè, se ci sono già le spese per le pulizie finali, se le pulizie finali sono a parte, se c'è la biancheria, se c'è la cauzione per la TV, insomma sono tanti piccoli aspetti veramente legati al mondo turistico, che però in una casa vacanza, visto che insomma bene o male in un hotel ci aspettiamo sicuramente la TV e il servizio frigo bar, certo, o la biancheria, non è detto che ci siano oppure che ci siano gratis in una casa vacanza. Diciamo che un inventario di tutta la dotazione della casa è bene che il proprietario lo presenti alla persona che affitterà questa abitazione, in modo tale che poi alla fine si farà check up quando la persona avrà lasciato la casa, per verificare se c'è tutto, in che condizioni appunto la dotazione casalinga è stata lasciata. Ma dottoressa Tulipano, intanto vedo già degli ascoltatori pronti ad intervenire, c'è Roberto da Parma, lo sentiremo fra un istante. Peraltro sì, segnala già anche una delle modalità con cui ha trovato la casa vacanza, perché poi ne parleremo, ce ne sono naturalmente tre fondamentalmente, c'è il web, c'è l'agenzia immobiliare tradizionale, ci sono anche come dire solamente il canale dei privati, c'è il passaparola, per cui ognuna di queste modalità ne richiede evidentemente un comportamento diverso. Ma il tema della disdetta anticipata, perché noi possiamo disdire, abbiamo fatto oggi la prenotazione, domattina ci rendiamo conto che non possiamo più partire, quindi quella casa non l'abbiamo mai vista, ma dobbiamo disdire anticipatamente appunto questa prenotazione, ci sarà una penale. Una disdetta anticipata può essere fatta anche nel momento in cui arrivo nella casa che ho affittato, capita un'emergenza, devo andare via prima, è evidente che entrambe le situazioni devono essere previste. Devono essere previste entrambe le situazioni. Di solito quelle che sono comunque regolamentate sono quelle di disdette anticipate, nel senso di, come per gli hotel, ho un 10% se disdico da qui a 3 settimane, e così a scalare, ovviamente più si avvicina la data in cui dovevo prendere comunque possesso dell'immobile, più pagherò più il di timer penale. Il timer della penale esatto, va avanti e quindi la cifra aumenta probabilmente. Esatto, nel momento in cui ho preso possesso dell'immobile molto probabilmente invece ho già pagato comunque tutta la cifra per l'intero periodo, che sia una settimana, 2 settimane o più, quindi andar via prima effettivamente comporta già una maggiore difficoltà, perché a quel punto diciamo non c'è un caso di no show, insomma, se vogliamo usare un termine prettamente da hotel, ma di fatto io ho preso possesso dell'immobile, di fatto ho occupato l'immobile comunque per quel periodo, quindi se io proprietario o agenzia immobiliare riuscissi a riaffittare l'immobile per quei giorni potrei anche restituire quella parte. È ovvio che se l'immobile comunque rimane a me non affittato per quel periodo, ma altrimenti non verrà restituito al turista. Certo. Poi, insomma. Allora, 800 24 00 24, vacanzieri all'ascolto, se state già partendo questa mattina e quando farete una pausa a caffè volete chiamarci, raccontateci se state raggiungendo la vostra località di vacanza e vi aspetta una casa in affitto e non l'hotel o la pensione o l'albergo. Raccontateci un po' come avete negoziato con il proprietario, come avete fatto a trovare questa casa, se avete utilizzato un'agenzia immobiliare, il canale internet, oppure è una casa di amici, perché poi lì si apre un altro mondo naturalmente. I patti chiari, amicizia lunga, non vengono come dire fissati sin dall'inizio con chiarezza, e lì magari poi si apre uno scenario di conflittualità un po' più ricco. Ma noi andiamo proprio a tutto quello che è corretto fare, ai canali istituzionali. Sentirei subito Roberto da Parma, che salutiamo, benvenuto. Buongiorno, grazie per la disponibilità a così prendere in esame ciò che mi è successo. Che cosa le è successo? Io sono un signore di Parma che ha affittato una deliziosa casa su 2 piani a Noto Alta per quest'estate per 18 giorni tramite un sito Holiday. Io ho fatto una prenotazione iniziale, la signora poi mi ha proposto un contatto esterno in modo poi da verificare. Scopro poi al momento della prima caparra che ho mandato tramite bonifico bancario che la signora mi chiede ulteriori 300 euro di caparra. Parlando dopo mi dice di un possibile sovrapprezzo dovuto ai consumi elettrici, perché nel periodo ci sarà bisogno dell'aria condizionata. Io non ho uno straccio di contratto, infatti poi mi sembra un po' facile per questi siti intascarsi una percentuale lauta e non dare nessun tipo poi di servizio aggiuntivo. Chiedevo che diritti ho io, certo, a questo punto, nei confronti anche di una possibile vessazione, perché a questo punto sono molto sorpreso. La signora dice che la prima volta che affitta tutte queste cose saranno sicuramente vere, però per me che vado a soffrire di un servizio vorrei stare tranquillo, cercavo di capire se le cose, per esempio, come sono successe, sono un reale diritto della signora. Certo. Allora, io dubito, Roberto, per la verità, però sono casi anche abbastanza frequenti, immagino. Isabella Tulipano, forse non capitano a voi di solo affitti, ma Home Holidays è un circuito che conosciamo. Magari, Roberto, se vuole scriverci anche in privato, potremmo anche provare a girare a loro questa sua vicissitudine. Allora, la signora, la prima volta che affitta, ha tentato intanto prima di mettere in circolo il suo immobile utilizzando un sito web, dopodiché ha provato a bypassarlo, perché secondo me questo è quello che è successo, dottoressa Tulipano, e quindi ha provato, per non riconoscere la provvigione e la commissione al sito, a negoziare con il cliente al di fuori di questa cornice. Ho sintetizzato secondo lei bene o sono stata un po'... No, sicuramente sì, perché appunto, diciamo, il vantaggio di rivolgersi a strutture come siti web specializzati è sicuramente la trasparenza, perché nel momento, come dicevo, quando prenoto comunque il prezzo finale, ho tra l'altro documentazione, perché stampo comunque la ricevuta di pagamento di quello che ho in quel momento versato, quindi la caparra, per quale motivo, le pulizie finali, eccetera. È ovvio che fare da privati purtroppo comporta questo svantaggio, quindi da una parte sì, forse pago un po' meno perché a quel punto non mi vengono richieste le provvigioni, ma dall'altra parte non ho mai la chiarezza e la trasparenza, come diceva giustamente il signore. Io in mano in questo momento non ho niente, per cui è anche difficile poi la sua contestazione, immagino, perché non l'unica non cosa ha che ha dimostrare. Un bonifico fatto però all'indirizzo di questa persona, e avrà probabilmente anche, potrà stampare la prenotazione fatta tramite Holidays, e quindi un pochino la potrà ricostruire, poi non si è conclusa positivamente. Certo che i margini per contestare questa cosa qua, che cosa gli conviene fare secondo lei, quindi un suggerimento di buonsenso? Sì, cioè in questo caso conviene quanto più riuscire a ricostruire esattamente nel primo versamento che cosa gli era stato promesso, e quindi nel documento iniziale che cosa era scritto, cioè quindi a cosa corrispondeva il suo pagamento, in modo da poter poi effettivamente dire di aver prenotato l'immobile a quelle condizioni, e non, insomma, non è che dopo si possono chiedere dei sovrapprezzi. E bisogna, insomma, bloccare il prezzo in quel momento, anche perché l'ho prenoto in quel momento proprio per bloccare il prezzo, che poi le cose aumentino o io mi rendo conto, perché è un po' questo, cioè il privato si rende conto dopo aver affittato la prima volta, la seconda volta, che ci sono una serie di servizi accessori, quindi sono le pulizie, sono il cambio della biancheria, quindi magari cose che all'inizio, anche in buona fede se vogliamo, non aveva preso in considerazione, che al turista successivo fa pagare per quello che non ha invece fatto pagare a quello prima. Però non è che poi un turista non le vuole pagare queste cose, l'importante è che lo sappia dall'inizio, certo. E che comunque magari si parta da un prezzo ragionevole e poi tutti questi sovrapprezzi teorici e possibili escano all'ultimo, non ci sembra corretto. Si parte da un prezzo e poi si chiarisce che, guarda, alla fine ti attribuirò le spese per la pulizia, il lavaggio di tutta la biancheria, e vedremo se ci sarà anche dell'altro, adesso che poi a Noto, per carità, in Sicilia è caldo e tutto, però che esplodano i condizionatori casualmente proprio quest'anno, li debba pagare tutto il nostro Roberto da Parma, mi pare anche un po' strano, però poverino. Allora, intanto ribadisco, ci può scrivere in privato, proveremo a contattare il sito citato, e non le dico ovviamente, dottoressa Tulipano, circostanza che avevamo ampiamente previsto, quante domande stanno arrivando su Airbnb, un altro grande circuito molto noto, sempre più utilizzato per prendere delle case in affitto, anche delle stanze in affitto. È una community molto grande a livello mondiale, perché è nata in California, per tutti coloro che vogliono inserire il proprio annuncio, scoprire e prenotare alloggi in tutto il mondo, online o con lo smartphone. Devo dire che in realtà questo sito gode di un'ottima reputazione, non li abbiamo questa mattina ospiti, però qualcuno ci sta chiedendo chiarimenti, e con Isabella Tulipano siamo pronte più o meno a rispondere anche a queste persone. Intanto direi che prima di sentire Simone D'Alecce e Igor D'Assi è tempo di sentire i mercati. Cuore e denari. Questione di fine. Se Nicoletta dalla vacanza sente questa trasmissione, mi sconfessa oggi, perché da questione di feeling andiamo alla questione di posso dirlo, Culex, che non ha niente a che fare con la fortuna, come a prima vista si potrebbe pensare, perché noi parliamo di Culex, che è il nome latino della assolutamente indesiderata compagna delle nostre estati, anche degli autunni, delle primavere, in ogni stagione, perché in realtà poi adesso sono diventate imbattibili, le troviamo in ogni momento dell'anno. L'insetto più fastidioso al mondo, qualche volta è anche molto pericoloso, quel piccolissimo vampiro che ha per noi un debole speciale, parliamo della zanzara, che sarà la protagonista della seconda parte della trasmissione ed è anche la protagonista di un libro scritto a quattro mani da Marina Marazza, scrittrice e giornalista, dal dottor Claudio Venturelli, entomologo, e saranno con noi tra poco, ma chiaramente noi vorremmo anche un po' divertirci con le vostre avventure. Raccontateci quali sono i punti più strani in cui vi appunto, quali rimedi naturali avete utilizzato per far passare il prurito. 800 24 00 24, cominciate a prenotare i vostri interventi. Soprattutto quando sono in gruppi numerosi amano trascorrere le loro vacanze prendendo in affitto una casa invece che andare in hotel, non tutti però, in particolare chi ha la prima esperienza, conoscono gli adempimenti contrattuali e fiscali da compiere anche per evitare possibili liti alla fine della vacanza, quindi cerchiamo di evitarla questa lite finale e mettiamo nero su bianco patti chiari, amicizia lunga fin dall'inizio. Con noi stamattina Isabella Tulipano di Solo Affitti e le vostre tantissime telefonate all'800 24 00 24. In molti ci hanno già raccontato delle disavventure, in molti stanno esprimendo invece tutta una serie di dubbi, non solo coloro che hanno fatto una prenotazione e magari non hanno visto per iscritto sul contratto tutte quelle cose che abbiamo già detto nella prima parte della trasmissione, c'è anche una serie di proprietari che ci sta chiamando e che cercano di capire come comportarsi dal punto di vista fiscale, magari hanno, che ne so, comprato una seconda casa proprio di recente, intendono metterla sul mercato per le vacanze estive in questo periodo e cercano di capire come orientarsi dal punto di vista normativo e fiscale, appunto. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Peraltro, Solo Affitti, dottoressa Tulipano, sono andata a curiosare sul vostro sito, ho visto la vostra iniziativa per le vacanze metti una casa in valigia. Di che cosa si tratta? Perché mi ha molto ben rappresentato questa frase, perché io quando vado in vacanza, proprio come dire, la sintesi della valigia non la conosco, mi porterei dietro tutto. Intendeva, esatto, questo? Sì, diciamo che partiva da quest'idea di chi preferisce comunque andare in una casa anche per vacanze invece che in un hotel, sicuramente lo fa anche perché ama, insomma, trasportarsi le proprie cose, le comodità, che sia anche il cuscino in cui dorme comodamente. In realtà quello è un progetto di comunicazione di Solo Affitti Vacanze, con cui c'è un contest video, abbiamo chiesto di rappresentare appunto come vorrebbero ci fosse, insomma, facile e comodo prenotare una propria casa per rilassarsi, quindi iniziare a rilassarsi già dalla prenotazione, quindi era un progetto che partiva da questa idea. Che è molto carino, molto ben fatto. Allora, andiamo a sentire ancora altri ascoltatori. Si era candidato Simone da Lecce, che salutiamo, benvenuto. Sì, salve, salve, buongiorno. Tutti gli italiani vogliono andare in Puglia, nel Salento e quant'altro, per cui Simone, insomma, un tema molto attuale per voi. Sì, sì, sì, beh, ormai il Salento è da qualche anno alla ribalta, sì. E non solo per gli italiani, io ricevo nella mia casettina gente da tutto il mondo, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dalla North Carolina, infatti chiedo dove sono andati a trovare Lecce, come hanno fatto a trovare Lecce, insomma. Guardi, l'Italia la trovano e come, Simone, altro che. Peraltro, beh, comunque, se lei già da tanti anni che addirittura anche questo richiamo straniero, evidentemente come proprietario si comporta benissimo, Simone, e è andata anche bene con tutte le persone a cui ha affittato, no? Sì, sì, le devo dire la verità, io, insomma, grazie a Dio non vivo di quella casetta che affitto, e quindi mi spendo molto nel far sentire, insomma, gli ospiti a casa loro, e non mi risparmio, insomma, nel fargli trovare tutte le comodità che potrebbe essere dal piatto di frutta, la tortina, qualcosa, insomma, che li faccia sentire a loro agio. E mi consideri già prenotata me, Isabella Tulipano, Isotta Shen e quant'altro per l'anno prossimo? Per quest'anno ormai siamo a posto, però Simone, ecco, per sentire le sue tortine e la sua fruttina. Detto questo, però, non ci ha chiamato solo per questo, ovviamente. No, non vi chiamavo per questo. Io i siti che avete nominato, insomma, sono siti che bazzico e con cui mi trovo benissimo, da Airbnb, HomeAway e quant'altro. E certo, naturalmente, insomma, poi dipende dalle commissioni che loro vanno ad applicare. Purtroppo sono molto, oscillano molto da sito a sito. Ah sì? Sì. E qualcuno però d'altronde invece... per esempio Airbnb mette in moto veramente un movimento mondiale, per cui dobbiamo riconoscere anche questo, sì, no? Sì. No, ma poi offre una serie di servizi, dal servizio fotografico gratuito, esatto, all'assicurazione, quindi comunque ben vengano, insomma, questi aiuti per chi è un piccolo insomma proprietario che cerca di... La sua domanda, Simone, grazie. La mia domanda è semplicemente quella, a livello fiscale, io insomma non faccio altro che, oltre a far firmare questo piccolo contrattino, non comunico alle forze dell'ordine i nominativi, perché sono contratti turistici inferiori a 30 giorni, e poi rilascio una piccola ricevuta. E quella ricevuta, su cui in realtà non c'è, oltre alla mia firma, un timbro, un nulla di che, io sono quelle che poi vado a portare insomma nella dichiarazione dei redditi. Certo. È sufficiente? Devo fare delle altre accortezze? Solo fa. Grazie Simone. Allora, tra l'altro, ieri gliel'ho raccontata Isabella Tulipano, una sera a cena con degli amici abbiamo proprio avuto una discussione veramente molto accesa sul tema di Airbnb e soprattutto di chi usa insomma questi circuiti per veicolare la propria abitazione, poi naturalmente arrivano le persone in casa. In molti ritengono che pagando l'intermediario, questo quasi sia il sostituto d'imposta, si faccia tutto tramite questo e non si debba poi portare in dichiarazione di redditi alcunché. Isabella Tulipano, e magari fosse così. Magari, in effetti. No, diciamo che Simone De Lecce fa tutto correttamente, quindi nel momento in cui c'è un vero e proprio contratto di locazione, il proprietario, quindi se anche lo facesse fare da qualcun altro sarebbe comunque lui come proprietario a dover poi andare a indicare in sede di dichiarazione dei redditi la somma, diciamo, che ha prodotto come reddito da locazione il suo immobile. Anzi, adesso è possibile anche per questa tipologia di redditi poter scegliere tra classico regime IRPEF, quindi con la deduzione del 5% prevista in questi casi, o la cedolare secca con l'aliquota al 21%, quindi non parliamo sicuramente di aliquote agevolate, però anche in questo caso, parlando di immobili abitativi utilizzati comunque per usi abitativi, seppure turistici, il proprietario ha anche questo vantaggio fiscale. Però sicuramente siamo all'interno di redditi che possono essere considerati sicuramente redditi da locazione, e quindi il proprietario deve andarli a dichiarare come se percepisse un reddito da locazione stabile. Daniele da Torino, forse anche per lei valgono le stesse risposte, ma sentiamo se le serve una consulenza aggiuntiva. Daniele, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti. Beh, io non posso intanto che confermare quello che ha detto chi è intervenuto prima. Sì. E aggiungerei una domanda secca per la dottoressa Palmieri. Tulipano, sì. Tulipano, dottoressa Tulipano. Palmieri non è venuta a trovarci stamattina, ma chiameremo Tulipano quando la conosceremo. Ci dica Daniele. No, allora, io sono un host che ha messo l'appartamento su Airbnb e la domanda è questa: quali sono i servizi che come host in modalità di affitto turistico si possono dare a chi viene ospite a casa nostra? Perché da quello che ho letto, se uno offre dei servizi ricade poi nella modalità di attività ricettiva alberghiera, certo, no? Per esempio la biancheria, il cestino di frutta che diceva prima. Bella domanda, se si utilizza appunto un appartamento preso praticamente in affitto attraverso questa modalità, dobbiamo quantomeno aspettarci che le persone ci facciano trovare la biancheria pulita, ce la dobbiamo portare da casa? Perché sa, un conto è magari andare in una località italiana, in un supermercato se li compra, ma poi uno magari va dall'altra parte del mondo, se si deve pure per una vacanza di una settimana comprare gli asciugamani negli Stati Uniti, riportarsi indietro, non lo so. Daniele, grazie. velocemente. Allora, Isabella Tulipano, mi spiace che facciano a lei tutte le domande su Airbnb, dovrò organizzare una puntata solo con loro, trovare il referente italiano, però ce l'aspettavamo effettivamente, perché davvero questo fenomeno è esploso, lo sapete bene anche voi. Cosa suggeriamo a Daniele? No, soprattutto Daniele fa una domanda molto intelligente, nel senso, perché il confine effettivamente tra quello che dicevo prima, reddito da locazione, quindi contratto di locazione, e gestione di attività, perché in fondo un privato potrebbe decidere se ha la seconda casa che vuole affittare, potrebbe aprire un'attività per affitto turistico, la famosa affitta camere, no? Anche perché molti effettivamente affittano una camera della propria prima casa, quindi diciamo sono un po' al limite. Il limite tra faccio un contratto d'affitto o apro un'attività di gestione di affittacamere è proprio questo, il fornire dei servizi. Adesso fornire l'immobile completo di biancheria e di frutta non è fornire un servizio. Fornire un servizio sarebbe effettivamente quello tipo affittacamere, quindi tipo hotel, quello del, per cui ti cambio le lenzuola, ti porto la colazione tutte le mattine, e ti cambio gli asciugamani, quindi ti ripulire la camera, te la pulisco io senza che invece tu abbia nessun obbligo. Esatto, darti la casa con biancheria, un cesto di frutta e la pulizia già fatta, questo rientra nella locazione, mentre appunto avere questo servizio di ricambio di bed and breakfast, esatto, poi entriamo in quest'altra tipologia di normativa. Certamente. Allora, io devo andare a sentire adesso i suggerimenti per chi è in viaggio, le chiedo solo un altro minutino di tempo, Isabella Tulipano, per fare solamente magari un'ultima rosa di raccomandazioni, lasciando da parte Airbnb per adesso, ma proprio andando al caso tradizionale: affittiamo una casa, se il turista la lascia danneggiata o sporca, fino a che punto possono spingersi le contestazioni appunto dei proprietari, come funzionano anche qua le contestazioni? Proprio le chiedo altri due minuti di tempo dopo il giornale radio per poi andare invece, ecco, se magari uno contesta la casa che ha trovato perché è infestata di zanzare, qua che cosa dobbiamo fare? Cuore e denari. Questo senso di festa che vola, che va sopra tutta la città. Isabella Tulipano, noi tra poco parleremo di uno dei più grandi drammi estivi, le zanzare, una presenza non preannunciata di zanzare nella casa che abbiamo affittato, una presenza tale che diventa intollerabile, insopportabile, può essere, perché magari abbiamo un bambino piccolo e sappiamo come li prendano di mira, e chiaramente se la situazione diventa proprio insostenibile, magari uno se ne vuole andare via prima, può essere una ragione di disdetta di un contratto, oltre alla zanzara ci metto anche, che ne so, una casa rumorosa e noi non ce la aspettavamo, non confortevole, sporca, troppo distante dalla spiaggia rispetto a quello che avevamo chiesto. Che si fa in questi casi, anche se magari ognuno di queste situazioni meriterebbe di essere trattato approfonditamente? Esatto, di solito deve essere un grave vizio di cui veramente non si poteva essere a conoscenza prima, quindi la distanza dal mare ad esempio non è sicuramente un grave vizio, perché dovrei effettivamente, tanto adesso mi danno l'indirizzo, provare con classicamente con Maps a guardare la distanza e quindi verificare che i 5 metri che mi hanno promesso poi siano effettivamente esatto, tali. Esatto, e no che se sono 6 uno in testa. Esatto, e invece sicuramente appunto una grave infestazione per cui non si può dormire la notte, questo sarebbe un grave vizio, perché insomma va a compromettere proprio il fatto che l'immobile debba essere usato e debba essere confortevole per l'inquilino che lo prende in affitto, cioè il canone di locazione viene pagato proprio a questo scopo. Se la casa invece viene lasciata dal turista che l'ha occupata per un paio di settimane, sporca, anche un po' danneggiata, ha fatto qualche danno, non lo ha detto, come fa il proprietario a contestare questo comportamento? Quanto tempo ha? Allora, di solito anche questo è importantissimo, lo diciamo all'inizio, in quello che vado a scrivere, quindi nel verbale di consegna che vado a far firmare dalle parti cerco di essere più preciso possibile, in modo che se ho scritto che il mio comodino è in perfetto stato e poi mi viene consegnato distrutto, io posso andare subito a verificare. Qui la tempistica deve essere veloce, perché se dopo 2 giorni c'è già un altro turista dentro è difficile andare a contestare che il danno sia stato fatto da quello precedente. Esattamente. È quello che noi consigliamo sempre, insomma, su come sito abbiamo, sono assicurazioni comunque a copertura di questo, perché insomma i casi sono tanti, andarla a recuperare direttamente poi dal turista è difficile, avere un'assicurazione a cui contestare comunque questi danni insomma aiuta molto il proprietario. Allora, speriamo di aver fatto una bella rinfrescata di memoria a tutti coloro che stanno o affittando la propria casa, la stanno mettendo in affitto per la prima volta quest'estate, a tutti coloro che invece stanno andando in vacanza e per la prima volta quest'anno hanno preso una casa in affitto. Speriamo di non aver preoccupato nessuno, perché magari qualcuno avrà scoperto adesso di non aver preso tutte queste precauzioni che abbiamo indicato questa mattina. Vabbè, quest'anno andrà di fortuna, l'anno prossimo saremo più attenti. Grazie ad Isabella Tulipano, buona estate a lei. Grazie, buona vacanza a tutti. A presto. Ecco, solo il rumore già mi scatena una reazione non tanto gentile, diciamo così. Poi ecco, immaginate, ma ognuno di voi ci sarà capitato, quando questo rumorino ce lo sentiamo di notte mentre stiamo dormendo e ci sveglia, perché ovviamente la zanzara prende di mira proprio l'orecchio, si infila sempre in quella zona lì. Non sono certamente l'unica a provare questi sentimenti, sono certamente in bella compagnia. 6 italiani su 10 ammettono di perdere completamente la pazienza di fronte ad un insetto volante, 4 su 10 affermano invece di nutrire una vera e propria acredine che sfocia nell'odio verso questi terribili animali. Sono microscopici, ma sono in grado di farci saltare per aria il sistema nervoso. E quanto emerge da una ricerca condotta dalla Vape Foundation, e oggi noi di insetti, in particolar modo di zanzare, vogliamo parlare insieme ai nostri ospiti che adesso vi presento. Non vi dico già quante telefonate ci state facendo all'800 24 00 24. Ognuno ci racconta la sua avventura con la zanzara di turno, e soprattutto qua c'è una marea di indicazioni che gli ascoltatori ci stanno fornendo sui rimedi che stanno utilizzando per combattere questo fenomeno. Molti rimedi naturali, altri ovviamente sono un po' più così, come dire, dirompenti. C'è un ascoltatore che subito ci ha scritto all'inizio: non c'è niente di meglio della racchetta elettrica, ci si diverte davvero molto con quella racchettina lì. Allora, buongiorno e benvenuta Marina Marazza, scrittrice e giornalista, ben ritrovata, ben trovata. Buongiorno a tutti. E grazie anche per essere con noi al dottor Claudio Venturelli, entomologo, oltre che collega giornalista pubblicista. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono entrambi autori di un manualetto molto divertente, Questione di Culex, il libro completo della zanzara. Se la conosci, la eviti. Marina Marazza, intanto subito non abbiamo detto una parolaccia, precisiamolo, perché Culex sta per zanzara. Assolutamente sì, Culex pipiens, che è il nome latino della specie, diciamo, più diffusa di zanzara. Cosa vi ha portato a scrivere questo libro? Da dove è nata l'idea? Vogliamo anche sapere se il titolo appunto ha una storia da raccontare. Oh sì, molto giusto. Giusto, è vero, cara Deborah, tutti i libri hanno sempre un po' una loro storia, no? Si dice che la gente scrive di cose che interessano, che appassionano oppure che tormentano, come in questo caso. E possiamo dire che tutto è cominciato con una vacanza, così stiamo in tema. Ho seguito prima la parte interessantissima sugli affitti e vacanza. Tra l'altro io sono un'affittuaria cronica, perché a me piace scrivere durante le vacanze, quindi di solito mi prendo la casettina per le vacanze, certo. Quindi vi ho proprio ascoltato con l'orecchio proprio teso. E tutto è cominciato con questa vacanza in Sardegna, ad Alghero, dove ero ospite di una mia carissima amica, che credo sia anche una delle scrittrici più amate dagli italiani, e mi sto riferendo a Bianca Pizzorno, che è una grande autrice di libri per ragazzi e più recentemente anche di bellissimi romanzi per un pubblico più grande. Allora, lo scenario è stato un po' questo. È agosto e questa casa che Bianca ha ad Alghero ha un bellissimo giardino interno. E questo giardino, che fino a poco tempo prima era soleggiato, era ventilato, a un certo punto è diventato molto ombroso, perché lì proprio di fianco hanno costruito un caseggiato piuttosto alto, no? E fin qui uno dice, benissimo, ombra, frescura, un bel giardino fresco, indubbiamente sì. Ma il fatto di essere diventato così ombroso, e poi qui ci vuole il nostro Claudio che ci spiega perché, ha trasformato questo giardino in un vivaio di zanzare tigri. Che hanno occupato abusivamente questo giardino. Abusivamente questo giardino, per cui tra l'altro io partivo da, sai, a proposito di false credenze, no? Sì. Che noi abbiamo cercato nel nostro libro di sfatare anche tutte queste. Dicevo, al mare, boh, ma al mare le zanzare non ci sono, ma figurarsi, le pozze di acqua salata, assolutamente. Diciamo che Alghero era piuttosto ben popolata di zanzare. Tra l'altro noi la sera abbiamo fatto in posti bellissimi qualche presentazione, perché c'è una grande grande vita culturale, sì, estiva, no? Quindi abbiamo presentato qualche libro, eccetera, eccetera. Oh, la gente arrivava già attrezzata. Io mi ricordo che intanto che parlavo dal palco con puntati riflettori, con le racchette, vedevo, con le racchette, sì, quelle lì. Guarda, le racchette che dicevi prima l'ho proprio sperimentata a casa di Bianca, che era organizzatissima e aveva anche le racchette. Ma la gente arrivava e vedevo queste nuvolette di spray repellente, no? Questi signori che si grattavano, ma con discrezione, proprio con classe, no? Molto delicatamente. E anche noi dal palco, figurati, sotto le luci, poi un po' accaldate, eravamo proprio un dessert meraviglioso. Io avevo lasciato a casa le zanzare milanesi e mi ero ritrovata le zanzare quelle di Alghero, un po' più estive, più abbronzate, un po' magari. Più estive, più abbronzate, ma veramente tenaci. Io molto, devo andare a sentire il giornale radio adesso, sì, però insomma ci hai creato questa bella suspense, adesso vogliamo capire come è andata a finire questa avventura, che certo, si è trasformata in un libro naturalmente, poi con il dottor Venturelli andremo anche a tutti i rimedi, al suo contributo in questo testo molto interessante oltre che divertente, per cui vi chiedo solamente qualche minuto di pazienza, ci aggiorniamo con le informazioni dell'ultima ora e poi ritorniamo insieme tra poco. Se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito, e se sei arrivato fin qui forse hai voglia di andare un po' più lontano. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema, ma una storia speciale che somiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solo attraverso la radio. Non voglio entrare nei dettagli di quel periodo, ma posso dire che ci sono stati dei giorni molto brutti e dei giorni inaspettatamente stupendi. Audiogrammi. All'ingresso del tunnel non ho tenuto le braccia alzate come se stessi volando. Ho lasciato soltanto che il vento mi investisse il viso e ho cominciato a piangere e a sorridere contemporaneamente. Audiogrammi Reloaded. Una storia come non l'avete mai ascoltata. Ogni domenica alle 18 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Cuore e denari. Dove sei, ma dove sei? Lasciami dormire. Dove sei, ma dove sei? Ti potrei schiacciare. Dove sei, ma dove sei? Ti stacco il pungiglione. Dove sei, ma dove sei? Smetti di ronzare. Allora, Marina Marazza, scrittrice e giornalista, dottor Claudio Venturelli, entomologo, hanno scritto Questioni di Culex, il libro completo della zanzara, se la conosci e la eviti. Loro avranno anche scritto un libro, ma certamente non conoscevano questa canzone, perché anche oggi effetti speciali a Cuore e Denari, quando si tratta di trovare delle colonne sonore invincibili per il nostro programma, devo dire che Marco Lombardo e Isotta Scena danno il meglio di sé. Detto questo, Marina Marazza, la zanzara, la grande protagonista del nostro programma, ci stanno tempestando di telefonate gli ascoltatori all'800 24 0024, così come tantissimi i messaggi al 349 238 6666, in tanti richiamano la nostra super zanzara, che è quella di Giuseppe Cruciani, a cui noi vogliamo molto bene, per cui ovviamente tantissime le battute anche sul nostro programma. Detto questo, siamo rimasti alla storia di Marina ad Alghero, in vacanza a casa dell'altra apprezzatissima scrittrice italiana, Bianca Pizzorno, ad Alghero, un giardino stupendo, soleggiato, improvvisamente un edificio costruito lì vicino rende quest'area piena di ombra e non so perché trovano le zanzare terreno fertilissimo per insediarsi. Che cosa è successo dopo? È successo dopo che praticamente lì ho avuto questa illuminazione. Le zanzare sono una maledizione biblica, le troviamo a Milano, le troviamo ad Alghero, le troviamo ovunque. Che cosa posso fare io? Che cosa so fare io? Poco, so scrivere. Facciamo un buon libro che approfondisca questo tema. Ovviamente io della parte zanzara conosco la parte più letteraria, più storica, più aneddotica. Per esempio, so bene che persino Virgilio, quello dell'Eneide, aveva dedicato alla zanzara un poemetto che si intitola Culex, e dove racconta di questo pastore che si addormenta in riva a un fiume, viene punto da questa zanzara, si sveglia, la spiaccica e poi si rende conto che pungendolo e svegliandolo la zanzara gli ha evitato il morso di un serpente velenoso, quindi gli ha salvato la vita. La zanzara gli appare in sogno, risentita, dice: come? Oltre che ti ho salvato, m'hai ucciso. Allora lui si pente e fa questo grande funerale. Quindi la zanzara è grande protagonista anche della letteratura, del cinema. Ha una dignità letteraria pazzesca. Ha una dignità letteraria storica, no? È stata addirittura un elemento di vittoria o di sconfitta storicamente, quando degli eserciti accampati sono stati attaccati dalla malaria. Ma mi mancava completamente tutto fatto il cotè scientifico. Per scrivere un libro sulla zanzara tu devi avere una mente entomologica. Allora mi sono messa alla ricerca di un partner che potesse scrivere con me questo libro e sono stata fortunatissima, perché ho trovato uno zanzarologo, lo dico così, non un entomologo, dico uno zanzarologo, lui non si offende, perché è una persona di spirito. No, è simpatico, Claudio Ventura. Che è uno specialista che è anche un divulgatore. Ho avuto questa grande fortuna e ho incontrato l'amico Claudio Venturelli, che è un pozzo di scienza sulla materia, e ci siamo messi insieme a scrivere questo libro. Adesso lo metto alla prova io, però, perché le domande degli ascoltatori che stanno arrivando veramente hanno dell'originale incredibile. Non pensavo che le situazioni potessero essere tante, ma non così tante, perché, dottor Venturelli, c'è persino un ascoltatore che ci scrive che a casa sua le sue zanzare sono pigre. Io pensavo che avesse sbagliato, invece di scrivere tigre avesse scritto pigre, invece no, sono proprio pigre, perché non solo non scappano, ma lui dice stanno immobili, io riesco pure a prenderle per le ali. Per cui, dottor Venturelli, qua, come dire, la rappresentazione la più ampia possibile. Intanto ci dice perché ci punge e soprattutto perché qualcuno può permettersi completamente di trascurare l'esistenza delle zanzare, e qualcun altro invece è davvero non solo preso di mira, ma proprio martoriato a volte. Mi dicevano che è questione un po' di sangue dolce, del pH della pelle, del sapore che ha il sudore, non lo so. Che cosa c'è dietro a tutto questo? Rispondo direttamente all'ascoltatore, giusto con due battute. Per le sono pigre. Sono le zanzare, perché con questo caldo le zanzare soffrono come noi. Mentre con il fresco hanno anche quelle 4 settimane di vita in questo periodo, e quando la temperatura è sopra i 35 gradi vivono non più di 2 settimane. In quelle 2 settimane sono veramente pigre e ci credo che sono facili da prendere. Detto questo, è una risposta molto così di curiosità. Per il resto, perché pungono? Pungono perché mamma zanzara mette a rischio la propria vita, perché ha necessità di una goccia di sangue nella quale trova le proteine che le consentono di maturare le uova e di proseguire la sua specie, quindi di assolvere al suo ruolo biologico, che è quello di far proseguire la specie, non di salvaguardare se stessa, tanto che quando noi la scopriamo sulla nostra pelle sicuramente non facciamo altro che schiacciarla, quindi lei mette veramente a rischio la sua pelle, la sua vita. Certo che se ce la racconta così, fra un po' ci commuoviamo anche e la giustifichiamo anche nel suo comportamento, dottor Venturelli. Dobbiamo addirittura vederla in questo modo? Se ce la dipinge come la mamma, qua a questo punto dobbiamo cambiare proprio il nostro giudizio. Io la studio, studiandola ho incominciato un po' a pensare come lei, quindi dico, ma lo farei di mettermi a rischio? Se fossi una mamma probabilmente sì, cuore di mamma. Ma come va a cercare queste vittime? Esatto, perché preferisce qualcuno e qualcun altro proprio lo disdegna completamente? Ci sono due motivazioni. Una è che chi dice non sono mai punto può darsi pure che venga punto, ma non ha una sensibilità tale da avere la reazione. L'altra è punto meno perché ha un pH diverso da quelli che sono preferiti dalle zanzare, ma soprattutto magari suda meno, ha un'alimentazione che è meno gradevole come odori emessi alle zanzare. La zanzara ci cerca così, a 70 metri già individua la nostra presenza, perché percepisce con le proprie antenne, dove sopra ha dei sensili che sono piccoli radar che catturano le molecole di acido lattico e di altre sostanze che noi emettiamo con il sudore e con i movimenti. A 20 metri è in grado di intercettare la CO2, l'anidride carbonica che emettiamo con la respirazione, e lì siamo fritti, nel senso che ci ha puntati e ci raggiunge. Si lecca i baffi in questo modo, perché è una sorta di predigestione che fa mentre si avvicina. Mm-hmm. Poi si posa sulla pelle e nella canzone sentivamo "ti stacco il pungiglione". In realtà non ha un pungiglione, perché non è che punge come l'ape, ma morde, ha un apparato boccale così sofisticato, capace di infilarsi nella nostra pelle, emette la sostanza che c'è nelle ghiandole salivari che rende fluido il sangue, succhia velocemente questo sangue, e quella sostanza che ci ha immesso può essere causa del nostro prurito, ma quando ci sono malattie in giro anche bravo, perché c'è Fabrizio da Mantova che addirittura ci scrive: ci sono casi di febbre dengue tropicale nel mantovano, sono determinati dalle zanzare, dottor Venturelli? La zanzara tigre fino al 2007 era ritenuta potenzialmente pericolosa per la trasmissione di malattie, dal 2007 è diventata anche in Italia veramente efficace trasmettitore di malattie, tanto che ha trasmesso anche qui in Emilia Romagna nel 2007 un virus potente che era il chikungunya e può veicolare anche il dengue. Ecco. Quella che c'è nel Mantovano per fortuna non è un'epidemia, ma è arrivata una persona dall'estero, l'ha presa fuori, quindi l'ha presa o se era in Sud America, che adesso c'è un momento critico lì nella zona dei Caraibi e del Brasile eccetera, e arrivando poi in città si ammala perché ha questa reazione, febbre eccetera eccetera, e lì bisogna far scattare le attenzioni e la prevenzione dovuta. Benissimo, siamo partiti sorridendo, adesso invece siamo ad un punto del nostro percorso che si fa un pochino più serio. Intanto 800 24 00 24, vi faccio sentire i nostri ascoltatori, c'è ovviamente anche la lista dei rimedi casalinghi di chi ci scrive al 349 238 6666. Io le zanzare le aspiro dal soffitto con l'aspirapolvere, ci manca pure che uno tutto il giorno debba andare in giro con l'aspirapolvere ad aspirare zanzare. E poi vi leggo cosa fa Bruna: un piccolo bouquet di lavanda fresca sul comodino, molto efficace. Ma il più bello di tutti, adesso l'abbiamo perso, l'ascoltatore che ha trovato il rimedio in assoluto, quello che ritengo più conveniente dal punto di vista economico per proteggersi, prima di recuperare l'ascoltatore che adesso è caduto. Sentiamo Lorenzo da Brescia che aspetta da un sacco, aspetta. Lorenzo, benvenuto. Sì, buongiorno. Le zanzare, al contrario del dottore, io le odio, però secondo me è un castigo che ci ha dato Dio questo. Vabbè, senta, guardi, penso che anche il dottor Venturelli quando lo cominciano a tempestare comunque, siccome col lavoro io giro spesso così, le più forti, le più potenti sono nel Novarese, sanno con le... Okay. Giù il riso, facciamo una bella mappa allora di quelle... passano addirittura i jeans ti passano, sì, è incredibile, un sacco passano i jeans. Quelle più forti, resistenti, le ho trovate in Romania in inverno a dicembre, 25 gradi sotto zero, fuori col cappottino, in casa c'erano le zanzare, incredibile. Vabbè, comunque, il suo rimedio, Lorenzo? Il mio rimedio è questo: prima usavo la spremuta di limone, ora invece ho provato con l'aceto. A me l'aceto è una cosa impressionante. Ma che cosa fa? Se lo spalma addosso, Lorenzo? Sì, me lo metto sulle mani, lo sfrego, poi lo sfrego sui punti, sulle ginocchia, sulle caviglie e sulle braccia. Ma e non puzza, non è vero che poi puzzi di aceto, non è vero niente, non puzzi niente. E a me quello lì è efficacissimo, non mi tocca la zanzara. Lorenzo, grazie. Marina Marazza, allora, anche voi nel vostro libro avrete fatto la raccolta dei rimedi più stravaganti, ma certamente efficaci, che si possono utilizzare per proteggersi, no? Dalle zanzare. Questo è originale, questo di Lorenzo? Sito del commento che faceva l'ascoltatore prima, simpaticissimo, no? Che diceva Novara è la zona dove c'è... Forse non a caso noi abbiamo pubblicato questo libro con la Dragostini. Ecco, infatti. Erano molto sensibili. Evidentemente c'era una certa sensibilità sul tema zanzara, mi divertiva molto questa cosa. Ma guarda, sui rimedi, diciamo... è chiaro che adesso noi abbiamo una pletora di possibilità, di repellenti, di cose. Io sono fissata, per esempio, a prevenire più che a curare. Per esempio, tornando al tema che avevi affrontato prima dell'affitto della casa vacanza, io non affitto una casa se prima non mi garantiscono che ci siano le zanzariere, che è la prima cosa, no? Cioè, diciamo, bloccarle prima che arrivino. Mi copro molto, metto maniche lunghe, pantaloni lunghi, evito i profumi, quindi c'è tutto un discorso di un po' di prevenzione, no? In questo senso qua. Per quanto riguarda poi le sostanze, cioè i repellenti, le piastrine, i prodotti antizanzare, eccetera eccetera, come usarli in modo corretto, eccetera eccetera, Claudio ha fatto proprio uno studio particolare su questa cosa, e lascerei a lui la parola. Sì, Claudio Venturelli. Ma in effetti la cosa importante per proteggersi dalle zanzare, probabilmente anche l'aceto farà qualcosa, che non lasci odori, è acido acetico che... Si vede che quel giorno a lui non dà fastidio, magari non lo sente, magari qualche vicino, insomma, qualche cosa intercetta. Detto questo, per lui il beneficio è talmente importante che trascura anche l'odore dell'aceto addosso. È vero, comunque oggi ci sono tanti repellenti che possono essere utilizzati, sì. Va fatta una distinzione se uno è un bambino oppure un adulto. Gli adulti hanno una gran quantità di repellenti a disposizione, i bambini un po' meno, quindi bisogna leggere attentamente le istruzioni d'uso, e a bambini sotto i 2 anni evitare di dare qualsiasi repellente, sopra darli con cautela e soprattutto quelli giusti. Quali sono per i bambini, dottor Venturelli? Ma per i bambini devono contenere... A parte contenere... il prodotto specifico evidentemente della farmacia, certo. Il nome è famosissimo, lo conosciamo già, ci sono proprio quelli per i bambini particolarmente delicati. Qualche cosa di naturale se la mamma magari è contraria all'utilizzo di questi spray? Ma intanto il geraniolo funziona, l'unica cosa che funziona per un periodo molto breve, per cui lo deve dare nel momento in cui serve e non pensare che gliel'ha dato la mattina è protetto per tutto il giorno, perché dopo mezz'ora, 40 minuti i bambini sudano molto, magari fanno anche un bagno oppure così e non funziona più. Direi che ci sono anche delle situazioni nelle quali bisogna considerare come vestirsi. Per esempio, se usciamo e sappiamo che ci sono zanzare, non andremo in giro in canottiera e pantaloncini corti, ma cercheremo di scoprire il meno possibile le nostre parti della cute. Dando meno spazio di atterraggio per le zanzare. Ecco, anche se poi chiaramente se si va a Novara, come abbiamo scoperto, passano anche il jeans, per cui bisogna stare attenti. È vero. Ma le dico di più, Luigi da Modena ci scrive che nei lidi ferraresi da militare la puntura di zanzara attraversava persino gli anfibi, che non toglievamo mai durante le esercitazioni, dice Luigi, quindi qua la casistica si arricchisce all'infinito. Le faccio sentire Dino dalla provincia di Bari, a lei dottor Venturelli e a Marina Marazza. Dino, benvenuto, veloce che stiamo chiudendo, grazie. Sì. Buongiorno a voi. Niente, volevo suggerire al pubblico di Radio 24 che ascolta questa trasmissione un metodo empirico che ho testato io in quanto sono stato scout, quindi portavo dei gruppi in montagna e facilmente venivano punti ragazzi. Per evitare le conseguenze della puntura, quindi il bruciore, avendo portato con me la cassetta di pronto soccorso e quindi essendomi fornito anche di siringa aspiraveleni per eventuali morsi di vipere, notavo che avevo delle ventose a seconda del morso della vipera, che poteva essere più o meno grosso, e queste ventose applicate sulla bolla provocata dalla zanzara praticamente è una siringa che funziona al contrario. Fa svanire l'effetto urticante. Posto sulla ventosa, posto sulla bolla, aspira il liquido urticante. Grazie Dino, devo dare subito. Grazie. Grazie. Dottor Venturelli, allora c'è chi dopo che è stato punto non sente nulla, come ci diceva prima, c'è chi invece vede questo ponfone che cresce a dismisura. Come si fa per limitare il prurito e il danno della punzonatura di zanzara? Velocemente in 30 secondi, perché purtroppo devo salutarvi, ma magari più avanti vi richiamo di nuovo. Dottor Venturelli. 30 secondi per dire evitare di grattarsi, perché grattandosi dice bene lei proprio in giro questa sostanza, e quindi si crea ancora più problema. E poi ci sono quelle pomate lenitive oppure un po' d'acqua fresca e ghiaccio e passa la paura. E vabbè. Insomma, attenzione comunque anche alle località che raggiungete, magari informatevi sulla presenza o meno intensa di zanzare. Grazie a Claudio Venturelli. Marina Marazza, grazie anche a te. Siamo proprio curiosi di sapere dove andrai in vacanza quest'anno, per capire se poi la tua meta produrrà un altro libro interessante prossimamente. Marina, in 10 secondi. Andrò in montagna, farò un giro del Trentino. Va bene. E quindi poi vedremo lì quali spunti tra le mele del Trentino. Sei talmente creativa che siamo certi che porterai a casa un risultato interessante. Intanto grazie molte per essere stati con noi. Culex, questione di Culex, il libro completo della zanzara, se la conosci la eviti, pubblicato da Diagostini. Grazie a Marina Marazza e Claudio Venturelli. A tutti quanti un buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì insieme a Nicoletta Carbone. A presto.